Linee d'ombra di Matteo Caccia. Ma io non ho mai odiato nessuno come io sono uno buono, ma lui lo odiamo veramente. Quando lui mi nota, mi indica con il dito e mi fa De Castro. Lui era un tenente istruttore burbero che non perdeva occasione per punirmi e urlarmi in faccia che non mi avrebbe fatto superare il corso. Storie di insegnamenti al contrario e di partite a scacchi in una puntata che si intitola Una questione di strategia. Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto e la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi? Sì, signore! Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero! Sì, signore! Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere, ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo! Non siete neanche fattuti esseri umani! Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda! Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi! Ma più mi odierete più imparerete! Io sono un duro però sono giusto! Qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani! Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno! I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi? Sì, signore! Ma che cazzo, non vi ho sentito? Sì, signore! Questo è il film, credo, indubbiamente più citato, o meglio, questo è il personaggio indubbiamente più citato nella compagnia di amici che ho frequentato per anni, proprio negli anni in cui questo film è uscito. Stiamo parlando di Full Metal Jacket, stiamo parlando del sergente Hartmann, questo personaggio che è solo nella prima parte di Full Metal Jacket, che racconta la storia di questi militari americani che si preparano a partire per il Vietnam. La prima parte è l'addestramento, la seconda parte invece è tutta là, è tutta contro questo nemico invisibile. L'abbiamo infilata qui perché, a parte perché a me, devo dire, piace sempre. C'è una storia bellissima riguardo, tra l'altro, la ricerca dei doppiatori. Kubrick era fissato con la ricerca dei doppiatori, non demandava alla distribuzione o alla produzione la scelta dei doppiatori nei vari paesi in cui il film andava. In molti paesi i film non sono doppiati, vanno semplicemente nei cinema con i sottotitoli. In Italia c'è un'antichissima storia di doppiatori e per questa parte lui aveva scelto Eero Spagni, che è un attore di teatro di una categoria altissima, che appunto ha dato la voce al sergente Hartmann ed è rimasto in qualche modo nei nostri cuori, perché appunto sono duro ma sono giusto, come diceva lui nel film. Oggi la puntata si intitola Una questione di strategia, dicevamo. Abbiamo diverse storie, tutte le storie che vi raccontiamo qui a Linea d'Ombra hanno a che fare con un confine, per cui hanno a che fare con un passaggio, diciamo, da uno stato all'altro. Se fosse fisica sarebbe da uno stato liquido a uno stato gassoso. Di fatto però, alla fine di quella storia, alla fine di quel racconto, al protagonista di quella storia lì, che di solito è l'autore stesso, è cambiato qualcosa, è cambiato un pezzo di vita, è cambiata una prospettiva. Ogni storia ha nel suo percorso un viaggio. Voi sapete che, insomma, quelli che ne sanno di narrativa, di storytelling, di scrittura, eccetera, eccetera, ti dicono sempre: ogni storia è un viaggio, il protagonista parte per un viaggio, incontra degli ostacoli, eccetera, eccetera, eccetera, degli amici, eccetera, eccetera, eccetera, degli strumenti per battersi e così via, fino a che arriva alla fine, sconfigge il drago, libera la principessa e torna a casa. Questo, grosso modo, qualsiasi storia racconta questa storia qua. Le nostre storie delle volte sono un pochettino più piccole, sono minute, sono proprio un lembo di vita, proprio come è il caso della storia di oggi, la storia di un uomo, di Andrea, che semplicemente va a fare il militare, incontra un tizio e quel tizio poi lo incontra anche suo fratello. Insomma, adesso la racconteremo e poi ce la racconterà meglio anche lui, però anche questa storia è una storia di confine. Se avete voglia di raccontarci la vostra storia di confine, la storia che ha una linea d'ombra che la attraversa, l'indirizzo è lineadombra@radio24.it. Sentiremo questa storia, sentiremo delle storie che hanno a che fare con una strategia di vita piuttosto bizzarra. Parleremo di Bobby Fischer, uno dei più grandi strateghi degli scacchi che ci siano mai stati su questo pianeta, che con la sua vita ha avuto una strategia appunto un po' balzana. E poi racconteremo i vostri diari della quarantena. Ma prima di cominciare abbiamo un audio. Sapete che ogni tanto vi chiediamo di mandare al nostro profilo Facebook, che è Linee d'Ombra, o direttamente anche al mio profilo Instagram, se per caso siete più avvezzi a usare quello, un messaggio vocale, però un messaggio vocale non scritto, in questo caso un messaggio vocale che racconti una piccola storia di rinascita, la volta in cui vi è successo qualcosa che da lì in avanti vi ha fatto capire che la vita ripartiva, che la vita era in qualche modo nuova e fresca per voi. Ecco, la prossima storia parla di questo, è una storia piuttosto lunga e racconta di una decisione presa da un uomo e da una donna che compiono un viaggio che di fatto li cambierà. Volevo raccontare un mio risveglio. Il risveglio è stato un episodio estremamente divertente. Per lavoro dovevo seguire una manifestazione di abbigliamento, si fa due volte l'anno, e ovviamente per la tipologia di realtà di azienda per cui lavoravo io dovevo avere un aspetto molto molto formale ed elegante. Ho incontrato dopo molto tempo, perché appunto di questa manifestazione se ne fanno due all'anno, erano passati 6 mesi, ho incontrato un cliente, un negoziante importante di abbigliamento di lusso, diciamo così. Quando mi ha visto mi ha abbracciato, e il finale del suo abbraccio è stato tremendo, lo sto ricordando ancora davanti a me, nella mia testa, però è stato il motivo, il risveglio che mi ha fatto decidere di tornare a casa e poi partire. Quando ha finito di abbracciarmi, il suo pollice e il suo indice hanno accarezzato il bavero della mia giacca alla ricerca della tipologia di tessuto, forse cercava quanto cashmere c'era nella mia giacca. Il contrasto tra l'abbraccio e la finzione è stato veramente come una secchiata d'acqua fredda mentre dormivo. Quindi siamo tornati, io e mia moglie abbiamo deciso di negoziare le nostre relative posizioni chiedendo un periodo di aspettativa. Io poi sono uscito da quell'azienda perché da lì, la mia è stata percepita come un po' un atto di egoismo e di tradimento di tutti i valori costruiti negli anni. E siamo partiti zaino e spalla in questo viaggio. Abbiamo fatto India del Nord, India del Sud sulle tracce di Terzani, poi Nepal, poi Cina, sia Shanghai che una zona rurale, poi Giappone, poi Australia, e poi siamo tornati indietro. Ci tengo a dire che non siamo ricchi e non siamo nemmeno giovani. Mi piacerebbe poter trasferire un po' la mia esperienza in un momento di grande cambio come quello che stiamo vivendo, e quindi ecco, stimolare le persone a provare a fare un'avventura di questo genere o considerare il viaggio come un nuovo inizio, come un risveglio. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io che fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore, questa volta sempre caso fosse amore, me lo voglio meritare. Me lo voglio meritare. La storia inizia dell'estate del 1967 a Caserta, presso la scuola allievi ufficiali di complemento, dove iniziavo il servizio di leva nel corpo dei bersaglieri. Avevo 22 anni. ho l'immediata sensazione di essere preso di mira dal vice comandante della compagnia, un tenente istruttore burbero e grintoso che non perdeva occasione per punirmi, per urlarmi in faccia che non mi avrebbe mai fatto superare il corso. Minaccia che ha continuato a farmi fino al momento dell'esame finale, che ho superato. Sono stati 5 mesi durissimi. Oltre alla fatica dell'addestramento, la privazione per le continue punizioni che mi impedivano di uscire la sera con gli altri allievi per godere degli unici momenti di relax, erano devastanti. Qui finisce la prima parte di questa storia. Lascio Caserta e il mio aguzzino. Completo il mio periodo di leva da ufficiale nei bersaglieri. Mi congedo. Catechizzo mio fratello e gli suggerisco di rispondere a chiunque gli avesse chiesto, se fosse stato parente di De Castro, di negare immediatamente. Siccome ero convinto di non aver lasciato una buona immagine all'interno della scuola, quando mio fratello è partito gli ho detto: senti Lino, perché dovessero chiedere i tuoi parenti di un De Castro? Tu dici no, per evitare che mio fratello potesse essere preso di mira dai suoi superiori. La scuola allievo ufficiale di Caserta era, adesso non è più così perché è cambiata, era molto dura e pesante. E ci mancava pure che lo bastonavano per altre cose, non su, insomma, che lo pensavano di là. Per cui è stato per preservare mio fratello, e così mio fratello ha fatto. Arriva il giorno del giuramento degli allievi ufficiali, ed io con i miei genitori partecipo alla festa. Il mio aguzzino era lì, al suo posto, in testa alla compagnia dei bersaglieri. Finisce la parata e scendo dalla terrazza dedicata ai parenti in piazza d'armi per abbracciare mio fratello. Mi guardavo bene dal presentarmi quale ex allievo della scuola, allo scopo di salvaguardare il prosieguo del corso a mio fratello. Improvvisamente il mio vecchio aguzzino mi scorge, punta il dito e si avvicina e dice: De Castro. Io timidamente rispondo: sì. Lui, abbracciandomi ancora più calorosamente, mi dice: e che ci fai qui? E io rispondo: e mio fratello ha prestato giuramento. Come? Tuo fratello è un allievo e io non ne so niente? Mi dice rivolgendosi a mio fratello. Da adesso qualsiasi cosa avrai bisogno, rivolgiti a me. Tuo fratello è stato un ottimo allievo, mi dice. Ho dovuto dare spiegazioni a lui e ai miei parenti, che ovviamente non hanno capito. Io invece a quel punto ho capito tutto. Un giorno mi trovavo in fureria e dico al sergente che devo dare un'occhiata alla scheda di un soldato. Mi accorgo che nello stesso armadio si trovano anche quelle di noi ufficiali. Trovo la mia, la leggo e trovo che nella relazione redatta dagli esaminatori, dopo avermi fatto test psicoattitudinali di selezione alla missione al corso, tra le altre caratteristiche personali diceva: soggetto poco propenso alla disciplina. Il tenente istruttore non ce l'aveva con me, faceva semplicemente il suo lavoro. Doveva farmi diventare un buon ufficiale. Chissà se ci è riuscito. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. these days these boots are gonna walk all over you. Si intitola Una questione di strategia, la storia di oggi, o meglio tutta la puntata di oggi di Linee d'Ombra. Ed è una questione di strategia, chiaramente quella che questo caporale ha utilizzato con Andrea e probabilmente anche con suo fratello, come perché in qualche modo è andata così. Ciao Andrea, buongiorno. Ciao, ciao Matteo, scusami, sì. Non era un caporale, era un pochino più di un caporale. Che cos'era? Era il vice comandante della compagnia, un tenente. Comandante della compagnia, quindi alto in grado. Alto in grado, sì, era il numero due della compagnia. C'era il comandante di compagnia che era un capitano e lui vice comandante. Oltre lui c'erano altri tenenti, perché noi venivamo seguiti e istruiti soltanto da ufficiali. Noi eravamo allievi ufficiali, i nostri istruttori erano soltanto ufficiali, e quindi c'era il capitano e altri quattro ufficiali che facevano, e lui era il vice comandante, il vice del capitano, e io ero un allievo, 22 anni, sbattuto dalla vita, una città di provincia come la Crescenza, ho fatto gli studi, certo. Sono stato sbattuto in un ambiente completamente diverso, e la mia famiglia era una famiglia molto rigida e molto, molto, molto teneva alla disciplina, all'ordine, bisognava, ora dicevo io, essendo universitario, a sera alle 8 dovevo essere a casa per cenare, però mi sono trovato in un ambiente in cui non c'era solo la disciplina, c'era la cattiveria della disciplina. Di che anni parliamo? 1967, luglio 67 io ho preso, sono arrivato alla scuola allievo ufficiale di Caserta. E quanto ci sei rimasto? Il corso durava 5 mesi. Era allievo ufficiale di complemento, giusto? Quindi alla fine tu eri un ufficiale a tutti gli effetti. Più importante a scuole, eravamo dei corpi specializzati noi, perché in quella scuola si formavano gli ufficiali del bersaglieri, che era cioè l'occhiello della scuola. Bersaglieri, sì. Carristi, lagunari e cavalieri, okay. Tutti corpi specializzati. E tu quanto ci sei rimasto alla fine? 5 mesi. Quei cinque mesi lì? Poi sono stato seguito, nonostante le minacce di non farmi superare il corso da parte del vice comandante. No, ma io lo sapevo, perché io adesso ripeto, mi metteva sempre quando c'era da fare delle buone figure, fare dei saggi, delle cose, mi metteva sempre nella squadra migliore, perché sapeva che poteva contare su di me, che gli facevo fare buona figura. E poi invece con tuo fratello come si è comportato? No, con mio fratello poi sì, si è comportato bene. Ti dico che quando perché io ho rimesso, mi ha sconvolto la vita quella sua reazione, che io ho dovuto giustificarmi con i miei e con lui. Ma io lo odiavo, credimi, io lo odiavo. Erano passati 2 anni, ma io ero pieno d'odio contro di lui. Mi ha rovinato la vita per 5 mesi. Ma che tu sappia, Andrea, vige ancora questo regime di... No, mai cambiato. Io parlo di 50 anni fa, okay. Mai cambiato io. A prescindere che non c'è più la leva, e quindi non c'è più la... E va bene, certo, certo. Il complemento non esiste più. Allora era l'esercito di massa, in cui si faceva la potenza dell'esercito era nel numero di persone addestrate al combattimento. Esisteva ancora lo scontro fisico, adesso non esiste più lo scontro fisico. Esiste l'organizzazione, la robotica, l'elettronica, armi particolari. Insomma. Senti, poi tu cosa hai fatto nella vita dopo, Andrea? Poi, come ti dicevo, sono entrato in una società finanziaria che era milanese, che aveva aperto una filiale in provincia di Agrigento, una sede in provincia di Agrigento, e si era allargata in tutta la provincia con diverse agenzie. Io sono entrato come cassiere, e poi nel giro di 6 mesi, siccome era in espansione, mi hanno promosso direttore dell'agenzia, e dopo qualche anno, siccome l'attività era borderline, nel senso che noi eravamo finanziaria, però operavamo in maniera paritetica alle banche. Le banche si sono infastidite, hanno fatto esposti alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia un giorno ha deciso chiuderci e basta, siamo rimasti. Tu sei in pensione adesso? Sì, adesso sono in pensione, sì, ho 76 anni. Ma però c'hai una voce di un trentenne. Eh sì, che vuoi, il medico ringrazio, mi ha prestato ancora un malato, ringrazio. Andrea, prima di salutarti, e poi devo chiudere, come si sta ad Agrigento in questo momento? Siete ancora tutti tappati in casa oppure la situazione è un po' più tranquilla? Sì, devo dire che in Sicilia siamo stati, mi piace dirlo e ribadirlo, siamo stati esemplari rispetto al comportamento, parliamo del coronavirus. Certo, di quello parlavamo. L'atteggiamento, il comportamento di quello che è successo al nord, noi qua siamo stati molto molto bravi, la stiamo vedendo da lontano. Siamo chiusi, io da 2 mesi che non vedo nessuno, per me è dura, mesi che non vedo nessuno. Io mi ricordo per lo quantomeno quando tutte le volte che ci vengo in Sicilia in questo periodo è una meraviglia, quindi stare in casa sarà ancora più complicato. No, immagino. Già abbiamo 26 gradi, adesso abbiamo 26 gradi. Lo immagino. Sono in maglietta con le maniche corte, no, singomiglia. La stagione è stata granché fino adesso, ma adesso si riprende qua quando scoppia il caldo, poi in questo periodo. Già sì, negli anni scorsi si andava al mare, quest'anno ancora no. Quest'anno vedremo. Andrea, devo salutarti perché non ho più tempo, ma ti ringrazio molto per la chiacchierata e soprattutto per la storia. Quando hai voglia siamo qua. Grazie a te e buon lavoro, complimenti sempre. Grazie, buona giornata. All the time. I said it's up to you to do what I want you to. To use my mind, use my mind. The way you do the things you do, make me have a chance for you. All the time, all the time. There's no need in teasing. Well, si intitola Una questione di strategia la puntata di oggi, dopo questa storia di questo caporal maggiore che usa quasi una psicologia inversa, continuiamo a raccontare. Ora sentiamo Le Borse in diretta e poi torniamo qui a Linee d'Ombra. Linee d'Ombra. La puntata di oggi si intitola Una questione di strategia e oltre alla storia della strategia inversa, oserei dire, del tenente istruttore che usa una sorta di stratagemma di formazione tutto suo, ora vi raccontiamo una storia che ha a che fare con una ricorrenza, perché l'11 maggio del 1997, per la prima volta, una macchina, un computer, riuscì a battere un uomo al gioco degli scacchi. Il computer era chiamato Deep Blue e sconfisse uno dei più grandi scacchisti di sempre, Garry Kasparov, usando una strategia che lo scacchista non riuscì a scalzare. La prossima storia però non parla di Kasparov, parla però di scacchi e di strategie. Il protagonista però è l'altro scacchista che con Kasparov si è giocato per anni il titolo di migliore al mondo. Sto parlando di Bobby Fischer e della sua strategia di vita. Questa storia l'abbiamo trovata in un libro molto bello di cui abbiamo già parlato, si chiama Il libro dei vulcani d'Islanda di Leonardo Piccione, pubblicato da Iperborea. Seguiteci lungo le linee d'ombra. Reykjavik, la capitale d'Islanda, aveva ottenuto l'organizzazione di quel campionato del mondo dopo il ritiro della candidatura di Belgrado, forte della tradizione scacchistica islandese e soprattutto dell'assenza di altre federazioni interessate all'evento. Tutte si erano ritirate di fronte alle eccentriche richieste del campione americano di Bobby Fischer, il più rivoluzionario giocatore di scacchi della storia, l'equivalente di quello che erano stati Muhammad Ali nella box e Pelé nel calcio. Un uomo che era solito passare le notti sulla scacchiera e i giorni a letto e che era in grado di prevedere nella sua mente lo svolgimento di un'intera partita in una manciata di secondi, si trasformò, in mezzo all'Atlantico, nell'americano capace di sconfiggere da solo e in piena guerra fredda la grande macchina russa. Lo fece caricandosi addosso le aspettative di tutto il mondo libero, contro i russi bugiardi, bari e ipocriti, disse. E lo fece in Islanda. La dedizione degli organizzatori non aveva comunque impedito al genio di Chicago di mettere a repentaglio l'effettivo svolgimento di quel grande evento. Fischer era un vulcano intermittente di intuizioni e sregolatezze, e la sua ossessione totalizzante per il gioco degli scacchi l'avrebbe reso prima paranoico e poi schizofrenico. Il 2 luglio del 1972, data della prima partita contro Spassky, si trovava ancora a New York, avendo deciso qualche minuto prima dell'imbarco di non partire più. Ci vollero il raddoppio del Montepremi e una telefonata di Henry Kissinger per convincerlo. «Vogliamo che tu vada in Islanda e batta il sovietico», gli disse il segretario di Stato. Il 3 di luglio Fischer partì. Il 4 iniziò la sfida. L'americano perse le prime due partite della serie, la prima per via di una mossa suicida, tentata esclusivamente per evitare la patta, la seconda per forfait. Non si presentò, disse che non sarebbe tornato a giocare finché le condizioni ambientali non fossero migliorate. In particolare lo infastidiva il ronzio delle telecamere che trasmettevano l'incontro in mondovisione. Spassky, pur di non accontentarsi della gloria parziale di una vittoria a tavolino, accettò di giocare la terza partita sul retro del palco principale, in uno spazio abitualmente usato per il ping pong. E fu lì che il russo cominciò a disunirsi. Fischer vinse e fu la svolta. Sbloccatosi definitivamente, il 1 settembre si laureò campione del mondo. All'apice della popolarità nazionale e internazionale, apparve su una storica copertina di Sports Illustrated, mentre Spassky dovette riconoscere che accettare le folli condizioni dell'avversario era stato un imperdonabile errore psicologico. Fischer diventò cittadino islandese nel marzo del 2005 grazie a una procedura speciale durata 12 minuti in tutto. Il Parlamento, riconoscente per la fama internazionale che lo scacchista aveva garantito all'Islanda, si era mobilitato per offrire prima la residenza e poi la piena cittadinanza alla vecchia gloria rimasta senza patria. Gli Stati Uniti, infatti, dopo le dichiarazioni post 11 settembre, lo consideravano un nemico di Stato. Una grande notizia, aveva risposto Fischer a una domanda sugli attentati del World Trade Center. È tempo che gli Stati Uniti vengano annientati una volta per tutte, aveva continuato. Per questo motivo era stato bandito da 488 aeroporti nel mondo. L'invalidamento del suo passaporto fu l'ultimo atto di un rapporto con la madrepatria che aveva cominciato a incrinarsi nel 1992. All'epoca aveva accettato di tornare a giocare a scacchi dopo 20 anni di isolamento per concedere la rivincita a Spassky in un incontro organizzato dalla Jugoslavia di Milosevic, appena sottoposta a embargo internazionale. Sul cablogramma del Dipartimento di Stato americano che gli intimava di non giocare nei Balcani, Fischer aveva sputato. Gli Stati Uniti, per tutta risposta, avevano emesso un mandato di cattura nei suoi confronti. L'avrebbero arrestato 12 anni dopo all'aeroporto di Narita, con la collaborazione del Giappone, e la notizia della sua carcerazione avrebbe raggiunto in pochi giorni le pagine dei giornali di tutto il mondo, compreso il quotidiano di Reykjavik. Fu qui che un manipolo di appassionati di scacchi, guidato dall'ex guardia del corpo che l'aveva scortato nel 72, avrebbe fondato il Comitato di Liberazione. Una mossa alla volta avrebbero salvato il mito degli scacchi dalla cattività nipponica. Testardo, egocentrico, controverso, paranoico e misantropo, l'ultimo Bobby Fischer si diceva interessato unicamente a due cose: i soldi e la teoria del complotto giudaico. Le sue opinioni erano radicali, quasi sempre contraddittorie. Si ostinava a fare l'esatto contrario di quel che ci sarebbe aspettato da lui. A Reykjavik visse in una casa malandata, con il bagno rotto, alcune porte mancanti e un sex shop al piano terra. Andava nei ristoranti poco prima che chiudessero, per non dare nell'occhio. Uno dei suoi posti preferiti era la libreria Bokin, dove amava leggere vecchie storie di ribelli e fuorilegge con cui si identificava ogni giorno di più. Alla radio ascoltava con piacere la musica di Björk, ma anche gli incontri degli alcolisti anonimi. trovava alquanto singolare che certe persone riuscissero a parlare così apertamente dei propri problemi. I pochi amici che gli rimasero accanto parlavano di lui come un uomo timido, insicuro e terribilmente frainteso. Ma sul suolo islandese Fischer riuscì anche a trovare intervalli di normalità. In uno slancio di ottimismo, poco prima di morire, confidò ad un amico che niente allevia il dolore quanto il tocco umano. Morì 64enne, 17 di gennaio del 2008, nell'ospedale di Reykjavik, per una complicazione renale, dopo aver rifiutato le indicazioni dei medici e aver scelto di affrontare la malattia come una qualsiasi partita a scacchi, da solo e senza alcun supporto. La lapide di Robert James Fischer si trova esattamente di fronte all'ingresso della chiesina dove il suo funerale fu celebrato in gran segreto. Erano presenti 5 persone in tutto. I giornali scrissero che, nonostante Kasparov e i computer, Fischer era rimasto insuperato in quanto a combattività e capacità di concentrazione, ispirando schiere di appassionati che negli anni hanno trasformato quel piccolo cimitero in un luogo di pellegrinaggio. A volte però capita che la più classica delle perturbazioni islandesi faccia desistere i devoti dal mettersi in cammino e che pertanto non ci siano fiori sulla tomba né orme diverse dalle proprie su quella neve. Si sente solo il tintinnio del cancelletto del cimitero, sbattuto dal vento gelido. Loro sono i Sigur Rós, che il nostro Luca Micheli ha scelto giustamente, visto che si parla di Islanda, visto che abbiamo raccontato questa storia che, come vi dicevo, abbiamo trovato in quel bellissimo libro che parla di storie di Islanda, anche se in realtà si intitola Il libro dei vulcani d'Islanda di Leonardo Piccione per Iperborea. Ci sono diverse storie, tutte molto belle, l'abbiamo già citato perché ogni tanto ci piace usare alcune di queste storie. E la storia di Bobby Fischer è la storia di un uomo che, insomma, in quanto a strategia ne ha avuta una tutta sua, senza dubbio. Se questa puntata si intitola Una questione di strategia, la sua probabilmente è molto molto complessa da capire. Esistono delle biografie di quest'uomo che davvero sono molto strampalate ed è complessa da capire la scelta che ha fatto Bobby Fischer, ma tant'è, non tutte le vite vanno capite, ovviamente, tantomeno forse la nostra. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo qui a raccontare un vostro diario dalla quarantena. Linee d'ombra. Ogni giorno ci arrivano davvero tantissimi diari di questa quarantena e tutti che parlano di storie diverse, di momenti diversi. E, tra l'altro, adesso ormai da una settimana le cose sono leggermente cambiate, no? Dal 4 maggio possiamo andare in giro per vari motivi, molte aziende hanno ripreso a lavorare, quindi milioni di persone hanno ripreso a lavorare più o meno, diciamo, presenti sul luogo di lavoro, magari chi riesce ancora da casa, chi invece deve andarci, ci è tornato ad andarci dal lunedì al venerdì o insomma quando lavora, quando il suo lavoro lo esige. E appunto le storie sono tutte diverse tra di loro e continuiamo a, così, a mappare un pochettino la situazione. Il prossimo diario che sto per leggervi, quando l'ho letto la prima volta, mi sono detto: secondo me Massimiliano ci sta prendendo in giro. E quindi ho pensato: non so se possiamo leggere il diario di Massimiliano. Poi invece ho detto: forse proprio perché ci sta prendendo in giro che va letto. Io sono un grandissimo fan di quel comico che si chiama Maurizio Milani, che è più di un comico in realtà, è un autore che attraverso la comicità dice delle cose. È vero che tutti i comici sono autori, ovviamente, ma in particolar modo forse perché amo particolarmente Maurizio Milani. Tra l'altro Maurizio Milani è di Codogno, ci ha creato una letteratura sul suo essere di Codogno prima ancora che Codogno diventasse la prima zona rossa d'Italia, e durante quei giorni in cui la sua cittadina alle porte di Milano era chiusa rispetto al resto del mondo, ha fatto dei diari meravigliosi in video, lo trovate su Facebook se volete, raccontando a modo suo, in modo stralunato e strampalato la sua realtà. Ecco, la storia del prossimo diario della quarantena che ci ha mandato Massimiliano sembra un pezzo di Maurizio Milani e parla di un suo amico, il suo amico Sansone, con il quale lui e Massimiliano si sentono tutti i giorni. Il mio amico Sansone. Io il mio amico Sansone lo chiamo tutti i giorni. Il mio amico Sansone lo conosco da 5-6 anni, da quando un'estate ci siamo trovati in una vacanza di gruppo al mare. Quell'anno, tanto per dire, il bar della spiaggia ha registrato il record di negroni sbagliati. Poi abbiamo continuato a frequentarci, abbiamo fatto ancora delle vacanze insieme e continuiamo a sentirci, adesso che c'è la quarantena anche di più, e ci mandiamo anche dei messaggi vocali. Di messaggi vocali abbiamo i nostri preferiti, ci ribattiamo quelli di una nostra classifica privata, eletti tra quelli rubati da una conversazione, da una chat di gruppo, da qualche personaggio assurdo. I miei preferiti però sono quelli di sprono a superare questo periodo di quarantena. Ad esempio ci esortiamo a vicenda a fare un po' di ginnastica, a fare un po' di movimento, così, tanto per tenerci in forma. Il mio amico Sansone ha raggiunto quota 100, ma non è in pensione. Lavora con soddisfazione per un ente pubblico. La cosa più bella, dice lui, e ne è particolarmente orgoglioso, è che da quando si è ammalato ha perso 5 kg. Il mio amico Sansone sostiene di aver contratto il coronavirus. Dice di aver avuto tutti i sintomi che compaiono sull'internet. La tosse secca, la febbre alta, anche a 38-38,5 e una temporanea perdita del gusto e dell'olfatto. Ma di aver capito di essere venuto in contatto con un virus nuovo mai avuto prima solo quando ha smesso di pensare alle sue fidanzate preferite la sera, prima di addormentarsi. Poi, abbiamo riflettuto più tardi quando è stato meglio, questo coronavirus, pur nella sua drammatica tragicità, alla fine ci è quasi simpatico. Sembra assurdo perché abbiamo solo una cosa in comune, che poi sarebbe l'istinto a riprodursi, o meglio, il desiderio dell'atto di farlo. Se ci pensate in questo senso, il coronavirus è formidabile, è una macchina da guerra, massimo rendimento con minimo sforzo. Rimane in stand-by a metà tra regno minerale e regno animale, poi, quando trova l'alcova giusta, la membrana cellulare del genere umano, la penetra e si riproduce. Perfetto, fantastico. Ad inventarlo di sana pianta non si sarebbe potuto progettarlo meglio. Un cappuccio di proteine lipidiche che protegge l'RNA e una manciata di proteine di contorno, indispensabili per agganciarsi alle membrane cellulari. E stop! Il mio amico Sansone, adesso, ha solo un po' di tosse secca, ma per fortuna sta bene. Quando ha composto il 1500 gli hanno negato il tampone, così adesso ha solo il rammarico di non comparire in nessuna tabella, disperso nell'oblio dei numeri mancanti. Il mio amico Sansone è un ottimo cuoco, spesso ci scambiamo le nostre ricette migliori. L'altro giorno ha fatto la focaccia pugliese con cipolle e pomodorini. Sembra incredibile, ma ancora adesso, dopo parecchio tempo, non riusciamo ancora a giustificare il fatto che non ci sia una folla premente sui nostri cancelli, composta da giovani donne, inebriata dai profumi che sprigionano i nostri fornelli. Il mio amico Sansone ha tanti follower sull'internet. L'altro giorno ha ricevuto 48 mi piace. Ha pubblicato una foto di quando era un tamarro e impennava con il ciao nella via principale del suo paese, nell'Interland milanese. Il mio amico Sansone, io, non l'ho mai visto impennare con il ciao nelle vie principali del suo paese, l'Interland milanese. Il mio amico Sansone, io non l'ho mai visto. Il mio amico Sansone è diventato cieco, come me. Io, il mio amico Sansone, meno male che c'è. Io, il mio amico Sansone, lo chiamo tutti i giorni. Disagree, but beg and disagrees with me. I would beg to disagree, but beg and disagrees with me. I told you I didn't want to go to this dinner. You know I don't go for those ones that you bother about. So when they say something that makes me start to simmer, that fancy wine won't put this fire out. Oh, kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. I'd like to buy you a pair of pillow-soled hiking boots to help you with your climb, or rather to help the bodies that you step over along your route, so they won't hurt like mine. Kick me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. table all you want. I won't shut up, I won't shut up. And if I don't wanna go, leave me alone. Don't push me, cookie, don't push me, don't you push me. If you get me to go and I open my mouth to the fucking mutton that they're talking about, you could pout, but don't you shush me. Keep me under the table all you want. I won't shut up, I won't shut up. E oggi cominciamo una nuova serie, una nuova storia seriale che ci terrà compagnia per 3 settimane. La storia seriale la raccoglie e la racconta Mauro Pescio. In questo caso, a differenza delle altre storie, la voce del protagonista non ci sarà, non perché non l'abbiamo trovato e non perché Mauro non l'abbia registrato, anzi la qualità era ottima, ma perché lui stesso ci ha chiesto di non apparire con la sua voce, di non essere presente con la sua voce. Quindi farò quello che faccio con le vostre storie, cioè il suo racconto lo racconterò io con la mia voce. Le storie seriali che abbiamo cominciato a raccontarvi da qualche tempo a questa parte, quando abbiamo chiuso il nostro catalogo di vizi capitali con la gola, siamo passati alla storia di Irene, che ci ha raccontato che cosa succede a una coppia che si ammala di coronavirus con un figlio e quali sono i 1000 vicoli nei quali si infilano per poterne uscire in maniera sana. E ringraziamo ancora Irene, trovate tutto sul nostro sito, sui nostri podcast, tutte quante le 3 settimane di storia seriale con lei. E ora riprendiamo la via, o meglio, riprendiamo la nostra linea d'ombra, perché questa storia racconta proprio di un confine molto ombroso. Direi che è un confine molto cupo, in realtà è un confine che probabilmente è difficile da guardare, è quasi come un pozzo, è un pozzo profondissimo. E il protagonista di questa storia è un figlio, direi che questo è il titolo probabilmente di questa storia, il figlio. È la storia di una persona che si trova di fronte a una cosa terribile che compie suo padre, e che cerca di fatto di compiere anche su di lui. Questa storia è la storia di un sopravvissuto, di un figlio sopravvissuto, e comincia in questo modo qui. Qualche tempo fa ho trovato su una rivista questo scritto. Di festività natalizie fuori ne ho vissute molte prima di entrare in carcere all'età di 54 anni. I primi Natali erano in una casa povera ma piena di calore umano, anche perché in quella piccolissima casa non c'erano solo mio padre, mia madre, mia sorella, ma anche una cugina e quindi una zia e la mia carissima nonna. Con l'avanzare degli anni, piano piano, le condizioni familiari si sono modificate. Ho cambiato casa tante volte, non ne avevamo una nostra, ma le feste, anche se modeste, si festeggiavano con quel poco che avevamo. L'albero di Natale era solo un ramo di pino che veniva adornato principalmente da mia madre. In tanti inverni freddi anche i vetri sottili delle finestre si arricchivano di fiori strani, era il gelo che li disegnava. Dopo tanti anni, grazie al mio lavoro in banca, la casa non era più fredda, ma una casa con i termosifoni in tutte le stanze. Il Natale era diverso, anche perché in quelle occasioni erano presenti più persone, la più importante era Giovanna, la mia fidanzata. Dopo alcuni anni con lei abbiamo creato una nuova famiglia e tanti sono stati i nostri Natali insieme. Poi è arrivato Emilio, la gioia assoluta. Quanti presepi abbiamo costruito. Per molti anni il periodo di Natale, essendo un periodo di ferie sia per me sia per mia moglie, ci siamo potuti permettere di festeggiarli in varie città europee. Ma da alcuni anni tutto questo è rimasto il mondo dei bei ricordi nei quali mi rifugio spesso e soprattutto nelle festività come quelle del Natale. Si mescolano con il peso della tragedia che io ho determinato, un gesto imprevedibile, ma che ha distrutto quella famiglia che aveva ancora tanti progetti e gioie da vivere. La mia strada si è chiusa dietro ad alte mura di cemento e tante sbarre. Non poteva essere altrimenti. Ecco che il Natale non era più gioia, ma dolore su dolore per quello che avevo causato. Un figlio senza una madre e con il padre lontano da casa per alcuni anni, non più una famiglia unita e rispettosa l'uno dell'altro. Non si può più tornare indietro e tutto questo è solo colpa mia. Ecco che il Natale si è trasformato in tristi ricordi, ma con la volontà di volere e poter essere ancora utile in qualche modo. Ed in questi anni era difficile anche viverlo durante le funzioni religiose nella chiesetta del carcere, esprimerlo in quei 10 minuti di telefonata alla settimana in diversi biglietti di buone feste che ho sempre inviato a parenti, amici, conoscenti. Penso spesso a come avrebbe trascorso quei giorni mio figlio, come li avremmo trascorsi se fossimo ancora in quella famiglia amata. Ma mai avrei immaginato che avremmo avuto questo futuro. Vi dicevo poco fa, è la storia di un figlio, ma è la storia anche di un padre. Queste sono le parole del padre in una lettera scritta qualche tempo fa. Mauro ha incontrato il figlio, che come vi dicevo è un sopravvissuto. Se mettete insieme le cose, non voglio raccontarvi troppo, se mettete insieme le cose probabilmente capite la profondità, la cupezza e la linea d'ombra che non si dovrebbe mai varcare, che quest'uomo ha varcato e quest'uomo ha fatto varcare anche a suo figlio. La chiudiamo qui, la chiudiamo così anche a questa puntata di Linee d'Ombra. Grazie a Paolo Corleoni che assembra tutto, grazie a Danita Panizza che mette insieme tutto e ci tiene insieme tutti, grazie a Luca Micheli, grazie a Mauro Pescio. Noi ora diamo la linea al GR e torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!